L'Italian Podcast Network presenta Di tutto un podcast. Idee ed opinioni del nostro mondo. Ebbene sì, ciao, siamo tornati, Michela. Bentornati ascoltatori carissimi, ciao a tutti. Io sono felicissima di essere qui in questa postazione, in questa cara vecchia postazione. C'è anche un po' di emozione, diciamocelo, perché insomma sì, ci ricorda tante cose. Che il PN diventa grandissimo, ma noi sempre qua rintanati sulla scrivania. Il Bertuggio dell'inizio, come si dice. Sempre qua stiamo con il ginocchio in fuorigioco. Sì, sì, certo. Assolutamente sì. No, vabbè, è un piacere, insomma, che di ritornare, riaccendere praticamente le vecchie strumentazioni di tutto un podcast, soprattutto perché è la trasmissione con la quale abbiamo iniziato, sì, ed è la trasmissione con la quale ci siamo veramente tanto divertiti, però l'abbiamo sacrificata in maniera clamorosa, insomma, e questo lo dimostra i mesi di inattività. Io penso mesi, forse anni, forse decenni, forse a parte il Festival del Giornalismo, che insomma è stato in crossover, diciamo così, con Fuoritempi di Paolo Perini, diciamo che veramente penso forse più di un anno che, sì, sì, che la trasmissione non è È troppo tempo. Abbiamo fatto poi un annuncio su Facebook, sul nostro sito ufficiale, sulle pagine a destra e a manca, insomma, che saremo tornati oggi, e quindi oggi eccoci qua per ridare vita a questa nostra nuovissima sì, trasmissione, che è uguale a sempre. Sì, però, sì, però come noi... sempre io cerco di parlare sbraitando, alzando il braccio. No, io sai che non ho visuale periferica, quindi siamo messi sempre più scomodi. Ma insomma, perché siamo... Allora, perché ragazzi, siamo, innanzitutto diamo il bentornato a tutti i nostri ascoltatori, sperando che siano ancora lì, e io sono sicura che sono ancora ma lì. Ma sì, stanno lì. E soprattutto diamo il ben arrivati ai nuovi ascoltatori, perché ci sono tanti ascoltatori di Italian Podcast Network che sono arrivati successivamente e che si chiederanno: ma che cos'è questo strano programma? Di che cosa parliamo? Noi diamo il benvenuto. Noi siamo Michele e Simone, i fondatori di Italian Podcast Network, che ad un anno... Capito? Capito chi siamo, no? Ad un anno del traguardo, insomma, più di un anno del traguardo che abbiamo raggiunto, possiamo dirlo con grande orgoglio. E quali sono i motivi per cui abbiamo mollato un po' questo programma? Da parte mia posso dire che grandissimi impegni che comunque ci sono stati, sia per via di PN sia per via comunque di alcuni lavori, più di tanto non siamo riusciti ad essere costanti, quindi abbiamo deciso di raccogliere le forze per un momento migliore che è arrivato, che... Ma è questo. Sì, io penso che sia proprio la nascita di PN è stata abbastanza clamorosamente impegnativa proprio per lo sforzo che ci è costato. Abbiamo cercato probabilmente all'inizio, insomma, di far finta di niente, di fare tutto con disinvoltura, ma in realtà era praticamente impossibile, perché o io o Michela eravamo... Allora pensa, Michela, che questa trasmissione, te devo dire la verità, questo non me lo ricordavo neanche, è di aprile del 2010. Così. No, ma forse ti sbagli. No, non mi sbaglio manco per niente. L'ultima trasmissione è di... Non l'ultima trasmissione, dico l'inizio di... Ah, abbiamo iniziato ad aprile 2010. È iniziato a... Sì. Aprile 2010 all'incirca, sì, con il famoso episodio 1X01, emergenza medica. Veramente, ragazzi, che so, manco me l'aspettavo. Comunque, dicevamo, Italian Podcast Network in maniera particolare ci ha portato via da questo nostro programma, perché coordinavamo altri lavori, sì, aiutavamo gli altri, soprattutto Michele ha fatto un lavoro anche di logistica in alcuni eventi, in alcune situazioni, roba del genere. Poi siamo arrivati al punto di dire: alcune trasmissioni secondo noi sono abbastanza indipendenti dal poter tornare per poter insomma andare per conto loro e noi poter tornare ai programmi che ci sono tanto cari, tant'è che Michele è tornato a fare Colibrò, io sono tornato a fare questo programma qua, probabilmente insomma un vecchio ritorno che a noi veramente fa piacere. Io penso al di là di questo, sì, voglio salutare anch'io i nuovi arrivati, perché molta gente ovviamente addicted di Italian Podcast Network mi dicevano: ma sto programma con sto nome strano. Perché poi negli anni ci abbiamo pensato tante volte, cambiamo nome, che facciamo, cambiamo tipo di programma, no, è rimasto tutto così. No, noi vogliamo restare così soprattutto per quelli che ci odiano, soprattutto per loro. Michela c'ha sta fissa in particolare. Noi siamo ostinati. Oramai me ne sono dimenticato. Ci piace, a noi ci piace far incazzare la gente, quindi magari sapevamo che così saremmo stati più simpatici ai nostri odiatori professionisti, però questo ci dava proprio il mal di pancia, come si dice da queste parti, quindi abbiamo deciso di restare di tutto un podcast. E vi ricordiamo i nostri indirizzi, ci trovate sul sito www.ditutumpodcast con la vecchia e cara errore ortografico mitizzato da tutti, però grandissimo errore ortografico di Simone, sì, è un errore di che battitura. C'ha le fregole e non aspetta e da quel momento in poi ci ha condannato a essere di tutto un podcast. Quindi noi siamo di tutto un podcast e qualcuno ci cerca come di tutto un podcast, quindi ci trovate comunque, se ci cercate su Google ci trovate come di tutto un podcast, sì. Di tutto un podcast dovunque, però l'indirizzo ufficiale è questo: www.ditutumpodcast.wordpress.com. Tant'è che poi la posta elettronica per dargli il gioco era di tutto un podcast @gmail.com. Poi vabbè, c'è la pagina su Facebook che invece è di tutto un podcast. Quindi lo scrivete normalmente anche con gli spazi così. E c'è il Twitter, ci trovate, c'è anche il Twitter di tutto un podcast che penso sia fermo da decenni, ma comunque potrebbe essere anche quello di tutto un podcast, anche quello. Poi noi adesso ci impareremo i vecchi trucchi, i vecchi non troppo vecchi, però insomma per noi sono molto nuovi, cioè i molto vecchi ma per noi sono molto nuovi, i trucchi dell'indicizzazione, quindi ci troverete in qualsiasi modo, dovunque, comunque, anche a colazione la mattina, ci spammeremo come i malati, quindi eccoci qua, siamo tornati io e Simone finalmente di nuovo insieme e... che bussa via che poi vabbè, ma e dopo sto grande pippone autocelebrativo, io direi che facciamo partire intanto il primo brano e ritorniamo per parlare di un secondo ancora di tutto un podcast e poi del tema dell'episodio. When I sleep the strangest dreams take me places I've not been, something's keeping me awake, coiled over like a snake, builds a whisper to a scream. As the sun goes down on me, all these arrows in my heart break the mirror in half. Never enough, never enough. No, I know it's never enough, never enough. No, I know it's never enough, never enough. Allora, rientriamo dopo aver ascoltato questa importante pausa musicale. Annuncio, insomma, a tutto il mondo che io limito mia moglie. Mia moglie è uno spirito libero, lei è limitata dalla mia presenza. Ancora? Questo lo dicevano anche gli ascoltatori. Ci siamo dimenticati, Michela, di salutare un ascoltatore in particolare. Vedi che allora è vero. Perché io ti ho limitato, è colpa mia. Chi è che salutiamo? Però tu sei la presenza sono il male preponderante, io. Nel senso che anche prepotente. Che la gente vuole Simone Pizzi, cioè non gli interessa niente di tutto quello che c'è intorno, perché lui è quello che si incazza, litiga. Io biastimo contro chiunque. Ricordiamo che ho vinto un importantissimo sondaggio dove sono stato votato io e ho vinto per due voti contro Darth Vader e addirittura tre voti di distacco contro Mike Bonzombi. Quindi insomma questo significa che la mia popolarità oramai ha raggiunto. Vabbè, vogliamo allora, salutare non comunque ci interessa. Salutiamo il nostro caro carissimo Pietro Busalacchi, che è la detto persona... così pare il caro estinto. Salutiamo il nostro affezionatissimo. Lo vedi che allora per limiti te sto a limitare, c'hai ragione. Il nostro affezionatissimo Pietro che noi salutiamo con un grande abbraccio, perché è proprio la persona che ci ha esortato a tornare prima di tutto, perché ci ha veramente sgridati come dai, bambini, come al solito ci ha cazziato ci ha cazziati come bambini per aver scelto comunque questo distacco, che lui non ha per niente appoggiato, perché secondo lui di tutto un podcast, e io sono d'accordo con te Pietro, è una dei programmi più importanti nel palinsesto dei podcast nazionali universali dell'universo mondo, quindi, di tutto quanto si trova quindi intorno noi adoriamo Pietro anche per motivi diversi. Bravo, Pietro. Che ci portano lontano un po' dal podcast, e gli auguriamo tutto il meglio. E ci manca tanto. Vabbè, posso dire una cosa, dirlo? Dato che ora ti limito un attimo, perché basta. C'è in questa mail che ci siamo scambiati recentemente con Pietro Busalacchi, al quale ovviamente, ripeto, anche io vogliamo molto bene. In realtà, se oltre ad essere stati cazziati, ci sono anche delle idee. Quindi, insomma, vediamo un attimo come evolveranno un po' queste questioni. In merito a Di Tutto un Podcast, invece, che cosa succede di Tutto un Podcast? Innanzitutto ritorna mensile, che è la prima cosa, perché sì, siamo tornati a Di Tutto un Podcast, ma rifarlo settimanale come lo facevamo agli albori è praticamente impossibile. Avremmo voluto farlo settimanale, ma non ce la facciamo. Gna fa io, cioè gna fa manca fa una trasmissione al mese, dai, io ne faccio 64, dai. Perché no. Tu mi limiti? Perché io ti scusa, limito. Come faccio io a fare il podcast da solo quando tu stai qua? C'hai tutti i microfoni. Io non te li do, me li tengo a braccio, sono mille i microfoni, sono mille, non te li do. No, comunque detto questo, io sto, come ho già detto, sto lasciando alcune trasmissioni proprio per ritornare a fare molto obiettivamente questa. E soprattutto alla salute, ma anche un po' alla famiglia, che non è male. Yes. Di Tutto un Podcast ritorna a mensile, ritornerà un po' come era un tempo. Racconteremo storie o situazioni tramite ricerche che faremo io e Michela, oppure interviste come tramite questo... personaggi che incontreremo. Esatto, questo specifico caso, per esempio, parliamo oggi di un personaggio che ci è saltato all'attenzione. Abbiamo voluto un po' fare delle ricerche, ci siamo fatti un po' delle opinioni, ma a prescindere dalle opinioni abbiamo deciso di farci aiutare con la persona più logica che abbiamo in Italian Podcast Network, ossia Paolo Perini, che essendo giornalista e avendo anche lui una trasmissione di approfondimento sulla cronaca e sulla politica, insomma, abbiamo pensato che questo potesse darci manforte. Quindi... E ringraziamo Paolo per questo intervento, per questo supporto che ci sta dando, perché comunque ha subito appoggiato la nostra iniziativa. E vi rimando anche, se qualcuno di voi se l'è sfuggito o non ha sentito prima Simone, uh-huh. Allo speciale che abbiamo fatto e al grande lavoro che abbiamo fatto soprattutto io, Paolo Vera e Sonia Topazio loro. Vedo io. Per noi ci siamo fatti il mazzo più grande. Io, quello della montana, copertura, no, quello della copertura giornaliera al Festival del Giornalismo, giusto, che è giusto. Stata un'esperienza massacrante da un certo punto di vista, ma veramente bella. Brava. Quindi cercheremo di ripeterlo e chi lo sa che questa volta non saremo un po' più ufficiali, alone di mistero, però Però insomma sicuramente lo ripeteremo. E non è detto che non ci troviate anche a qualche altro festival. Ma non di cose che non sappiamo se riusciremo a mantenere, ok? Beh, sicuramente. E poi ritmo. Un ruolo di Italian Podcast Network, che poi vi verrà presentato successivamente, sarà quello al Festival della Scienza. Ring the drang come the drang. Presenza non è detto, però sicuramente noi saremo in qualche modo lì. Ok, dai. Here I am, I know I'm not as you planned, because I'm no knight and I'm no prince, but I am convinced that I can sweep you off your feet with a simple melody. But I'm singing to your balcony, won't you open up the door? Entriamo nel vivo dell'argomento. Allora, parliamo di Chico Forti. No, non gli vai avanti la scaletta, non c'è più niente. Che ne so io? No, lo dico io. Tanto adesso parte l'intervista che ho fatto con Paolo Perini. Abbiamo parlato di Chico Forti, che è un uomo, un italiano, un cittadino italiano, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti e detenuto in una prigione di massima sicurezza per un omicidio che si presume che lui abbia commesso. Ora, prescindendo da come la pensiamo, come la vediamo, noi vi suggeriamo di approfondire una storia, ve la raccontiamo, poi farete anche voi le vostre valutazioni, approfondirete, ci sono molti materiali insomma in giro per la rete, ci sono anche pagine Facebook e gruppi Facebook insomma che ne parlano e sono a sostegno di questa causa qui. Alla fine di questo racconto poi avrete a voi l'opportunità di farvi la vostra idea e di dire insomma come la vedete, e a quel punto insomma ci saprete dire la vostra, e spero che continueremo a confrontarci come era abitudine imprescindibile di tutto un podcast nei vecchi tempi. Commenti su commenti, risposte, e sotto diciamo così sotto ogni puntata nasceva un vero e proprio forum di discussione. Quindi io spero che rinasca questa bellissima abitudine che abbiamo avuto noi e che abbiamo avuto il primato di avere solo noi, sempre noi. Mi sembra un po' di... Mi ha dato proprio dei megalomania, insomma. No, io vengo da una bellissima giornata con mio marito nel mare. E anche questo gliene frega una cifra. E quindi sto tutta galvanizzata. Galvanizzata. Facciamo partire l'intervista. Avevamo pensato di partire con questo nuovo debutto di tutto un podcast parlando di due personaggi per due ragioni differenti ma simili, però poi abbiamo anche ragionato anche con la persona con la quale abbiamo deciso di fare questo episodio, che probabilmente due personaggi insieme avrebbero creato forse un po' di confusione, sarebbe diventata un po' troppo lunga la questione. Quindi abbiamo deciso di concentrarci intanto su uno dei due personaggi che abbiamo annunciato anche pubblicamente. Ma prima di entrare ovviamente nel vivo della trasmissione, vi dico con chi stiamo facendo questo nostro episodio di esordio della nuova stagione di Tutto un Podcast. Ovviamente è in IPN, ovviamente è una persona che ha portato un po' di informazione, un po' di giornalismo all'interno, insomma, di Italian Podcast Network, e non poteva altri che essere Paolo Perini di Fuori Tempi. Ciao Paolo. Ciao. Allora, tutto a posto. Allora, Paola. Ciao a tutti, e sono felicissimo di insomma fare questa intromissione che spero insomma diventerà anche magari in futuro una collaborazione sul podcast diverso dal mio, che è in realtà la mamma di tutti i podcast di Italian Podcast Network, che è di Tutto un Podcast, appunto. E io mi presento molto brevemente, appunto sono Paolo. I pochi di voi che mi ascoltano regolarmente mi ascoltano di solito sul programma Fuori Tempi, come ha detto il nostro Simone Pizzi. Io sono un pubblicista, sto finendo appunto di prendere il tesserino, quindi sono un giornalista e sono trentino, come appunto il personaggio di cui oggi andremo a discutere. E sono trentino, vivo attualmente a Bologna e qui lavoricchio un po' qui un po' là, e appunto senza perdersi ulteriormente in chiacchiere, io direi che il personaggio di cui in questa prima puntata di Tutto un Podcast parliamo è Chico Enrico Forti. Chi è Chico Enrico Forti? Enrico Forti non è molto conosciuto, grazie soprattutto a una volontà dei media, ma di questo parleremo dopo. E chi è? È una persona, è un italiano ovviamente, è un trentino, che dopo un processo di 24 giorni, quindi un processo lampo, il 15 giugno 2000 è stato ritenuto colpevole di un omicidio da una giuria popolare a Miami, precisamente nella Dade County. Questa è la motivazione tradotta dall'inglese: per aver personalmente e o con altra persona o persone allo stato ancora ignote, agendo come istigatore e in compartecipazione, ciascuno per la propria condotta partecipata o in esecuzione di un comune progetto delittuoso, provocato dolorosamente e preordinatariamente la morte di Dale Pike. Quindi è dentro perché appunto secondo questa giuria popolare è complice di un omicidio. Sì. E a questo punto passerei la parola a Simone. Sì, esatto. Allora, innanzitutto facciamo un attimo magari una piccola precisazione, perché in effetti, come ha detto Paolo, Forti non è molto conosciuto dalla parte grande, insomma, dei mass media, o anzi più che altro dal grande pubblico, sebbene poi alla fine alcuni interventi in alcune particolari trasmissioni di Rai 1 ogni tanto se ne è visto parlare, anche se in maniera estremamente sommaria. Io faccio una piccola precisazione in merito a questo, me ne prendo anche un po' la responsabilità. Noi siamo stati contattati un anno e mezzo fa da chi gestisce la pagina Facebook della storia di Enrico Forti, chiedendo ovviamente di poter pubblicizzare la storia di Chico e soprattutto di poterne parlare. A quel punto siamo stati indirizzati verso lo zio di Chico, che era la persona con la quale avremmo voluto fare questa intervista, ma questa intervista ci è stata poi negata, insomma, c'è stato poi magari un pizzico, insomma, di polemica su questa storia qua, che a me dispiace in realtà, perché come abbiamo anche discusso con Paolo Perini, in realtà è l'importante è discuterne, no? La missione è quella, che poi sia una platea di 1000 persone ossia una platea di 150.000 persone, la differenza sostanzialmente in un caso come questo non dovrebbe esserci. Comunque questa è una storia della quale noi andiamo a parlare, e con Paolo probabilmente nei prossimi mesi, insomma, racconteremo storie anche come queste quando ovviamente ci saranno le occasioni. Ma andiamo un po' a ritroso. Intanto chi è? Che è ovviamente Chico Forti, anche chiamato Enrico, si chiama Enrico, poi in realtà il nome suo sarebbe, insomma. Ma Enrico Forti, detto Chico, nasce a Trento nel 59. E, beh, diciamo subito che in Florida chi era Enrico Forti? Enrico Forti in Florida e negli Stati Uniti era un imprenditore, è un imprenditore. Nasce a Trento nel 59, appunto, fa la maturità scientifica nel 78, in seguito si trasferisce a Bologna, un po' come me, per frequentare l'ISEF, l'Università di Educazione Fisica. Fisicamente dotato, si dedica alla pratica del windsurf. Infatti negli anni 80 era abbastanza conosciuto anche in Italia grazie ai suoi successi a livello mondiale, quindi stiamo parlando di un imprenditore ed ex sportivo. Negli anni 90 si trasferisce appunto a Miami in Florida, dove intraprende un'attività di filmmaker e presentatore televisivo, soprattutto filmmaker però. Si dedica poi anche alle intermediazioni immobiliari, ed è proprio svolgendo l'attività di intermediatore immobiliare viene a contatto con questo personaggio che è Anthony Pike, che è il padre di Dale Pike, la persona che Chico appunto avrebbe ucciso. E Anthony Pike, senza entrare troppo nei particolari che entreremo poi di seguito, si presenta a Enrico Forti come proprietario dell'omonimo albergo sull'isola di Ibiza in Spagna. Chico era perciò un emigrato di successo, imprenditore ed ex sportivo, e godeva di una certa sicurezza economica. Perfetto, io qua però farei un attimo un piccolo inciso, magari più che altro una questione di opinione, no? Ecco, volevo sapere da te, perché da quello che abbiamo capito è che Forti era comunque una persona particolarmente eclettica ed attiva, cioè nel senso che dallo sport all'imprenditoria poi in realtà anche lui ha intrapreso tutta una serie di attività parallele, insomma era uno che non stava molto con le mani in mano, insomma, perché dal filmmaking all'imprenditoria magari immobiliare, insomma, certo ce ne passava, il che però poi lo ha portato anche a un discreto successo per quanto riguarda ovviamente le sue attività negli Stati Uniti. Questo è quello che penso di aver capito in linea di massima, giusto? Sì, sì, sì, assolutamente. Ok. Però insomma, come tutte le persone che si danno molto da fare e secondo me anche le persone particolarmente curiose, questo, che poi leggendomi gli articoli nei vari anni, insomma, e questa è un po' la cosa che forse mi è saltata agli occhi, è Chico Forti ovviamente poi ha intrapreso delle compagnie, cioè ha avuto delle compagnie o ha fatto delle conoscenze che potevano essere non proprio limpide, non proprio chiare, insomma. Parliamo un po' di questa questione delle cattive compagnie di Chico Forti. Eh beh, questo secondo me è un po', cioè non dico che è un po' inevitabile, però sai, quando appunto sei una persona comunque di successo, ma soprattutto come hai detto tu, una persona che si dà tanto da fare, viene in contatto con tante persone. Questo cosa implica? E questo stiamo facendo un discorso generale, ovviamente, che vale per Chico, come vale per me, come vale per te. E ovviamente puoi incontrare anche persone, secondo me, e questa esprimo un'opinione, un pochino più furbe di te. E anche con non chiare intenzioni. E se appunto non sei magari un uomo di successo, un uomo capace, però rischi appunto di finire magari in qualche trappola. E è quello che dal mio punto di vista è successo a Chico Forti. Ma non anticipiamo i giudizi, andiamo subito sui fatti. Cosa è successo? Allora, questo albergo di cui vi parlavo prima, di questo Anthony Pike, aveva goduto di una certa notorietà negli anni 80, era stato frequentato appunto da personaggi del jet set e quindi aveva un nome, insomma, questo albergo era abbastanza conosciuto. Kiko infatti pensava che valesse qualcosa quando Anthony Pike gli ha proposto di comprarlo. Infatti è stato Anthony Pike a proporre a Kiko di comprarlo, e non come la giustizia americana poi ha ricostruito erroneamente, Kiko a chiedere a Anthony Pike di comprarlo. È stato esattamente l'opposto, è stato Anthony Pike a chiedere a Kiko di comprarlo, di rilevare la sua attività. Perché? Perché in quel momento quell'attività era sull'orlo della bancarotta. Quindi era un albergo internazionale di lusso molto conosciuto, però era in bancarotta, come era in bancarotta anche Anthony Pike. Nel 97 questo Anthony Pike viaggia alla volta di Miami, ospite di un tedesco di nome Thomas Knott, che appunto da qualche tempo soggiornava a William Island, in un appartamento sito proprio sotto l'abitazione di Enrico Forti. E questa è una delle tante, se vogliamo, strane coincidenze di questa storia. Però chi è Knott, questo amico dell'amico Anthony Pike? Knott è un intrallazzatore condannato in Germania a 6 anni di detenzione per truffe miliardarie, tanto per dire che comunque non sono solo gli italiani a essere dei truffatori. Sparito durante il suo periodo di libertà vigilata, è ricomparso a Miami, ospite di altri amici tedeschi, e viveva appunto a Miami sotto falsi documenti procurati da Pike, quindi da Anthony Pike, e faceva l'attività di copertura di istruttore di tennis. In realtà continuava ad essere un truffatore, 25 accuse in poco più di 6 mesi, 25, e l'ultima fu proprio quella tentata ai danni di Enrico Forti, convocando Anthony Pike a Miami con l'intento di vendere il citato hotel, sebbene non fosse più di sua proprietà da un anno, di sua proprietà di Knott, e invece fosse di proprietà di Anthony Pike. Durante questa trattativa compare sulla scena Dale Pike, il figlio, anche questo uno scavezzacollo, tanto per dire che comunque non sono solo gli italiani che nel mondo fanno i casini. Anzi, questo Dale Pike era, doveva scappare a un certo punto precipitosamente dalla Malesia, chissà cosa andava a fare in Malesia e chissà perché volevano ingabbiarlo in Malesia. Per motivi non accertati, appunto, ricorse all'aiuto del padre, essendo anche lui in uno stato di necessità finanziaria. Anthony Pike non aveva più disponibilità finanziaria, anche lui era in rosso, e chiede l'aiuto di Enrico Forti, il quale, essendo oltre che un imprenditore anche un trentino e quindi una buona persona che si fida delle persone, purtroppo fu disponibile alla fine del gennaio 98 a pagare a Dale Pike il biglietto aereo dalla Malesia alla Spagna. 15 giorni più tardi Anthony Pike telefona nuovamente a Enrico Forti proponendogli una visita a Miami, questa volta in compagnia del figlio. Il giorno del loro arrivo fu programmato per domenica 15 febbraio 98. Convinse nuovamente Enrico Forti ad anticipare del denaro per pagare i biglietti aerei che portassero i due a incontrare Forti. Quindi Forti aveva già pagato, insomma, diciamo, il viaggio del figlio e poi il viaggio del padre e del figlio per incontrarli. Io c'ho subito una domanda, perché poi in realtà, vabbè, forse è una domanda anche un po' scema, però poi alla fine mi viene in mente. Secondo me l'impressione che ho io è che comunque Forti è da italiano, quindi da persona che viene dal nord-est Italia, che è andato ad crearsi una sua realtà negli Stati Uniti d'America, per un momento probabilmente ha avuto la sensazione di essere entrato in un mondo più grande di lui, no? Cioè, nel senso, a Roma direbbero se l'è sentita calda, no? Nel senso che dici: guarda quanto sono dritto, sono entrato in un mondo che è anche lontano dal mio, no? Nel senso, sto entrando in una realtà di successo. E questo probabilmente l'ha probabilmente un po' anche confuso, perché insomma a tante persone il dover sganciare quadrini in più di un'occasione a pro di altri probabilmente avrebbe già acceso qualche campanello d'allarme, no? Invece, esatto. Sì, l'ho pensato anch'io. Mi è sembrato molto ingenuo da questo punto di vista, insomma. Ok, allora facciamo una piccola pausa velocissima, poi ritorniamo, perché qui la storia comincia a diventare veramente interessante. ci ridacchiamo sopra, non per lui, assolutamente, proprio perché comunque spesso e volentieri è proprio l'assurdità di alcune situazioni che ti portano poi in determinate condizioni come quelle nella quale poi è finito Chico Forti, che sono quelle che abbiamo detto all'inizio, ossia praticamente lui è attualmente in carcere con un processo, insomma, sul quale poi ovviamente magari diremo anche qualche parola, perché pure lì, certo, insomma, certo, c'è molto da dire. Ci sentiamo fra qualche minuto. That you're different 'cause you're not. Ok, ritorniamo, siamo sempre con Paolo Perini, Fuori Tempi, ve lo ricordo www.fuoritempi.wordpress.it, tutti i lunedì su Italian Podcast Network e sul suo feed ovviamente su iTunes, quindi ragazzi tenetelo a mente perché tutta la settimana informativa, tutta la settimana di notizie e di eventi economici e politici più o meno vengono sintetizzati ed espressi con l'opinione proprio di Paolo Perini, che invece di dare una semplice cronaca ovviamente esprime considerazioni in merito a questo. Tra l'altro è interessante come lui dice, e ho visto che sta piano piano succedendo, è interessante anche avere poi un'interazione su quello che Italian Podcast Network propone al proprio pubblico, in modo che il pubblico possa essere interattivo. Ma torniamo alla storia di Chico Forti e siamo arrivati ovviamente a questo ennesimo esborso di biglietti per biglietti aerei, insomma, vai. Esatto. Allora, stiamo parlando di Enrico Forti, che è appunto un italiano che per concorso in omicidio. Siamo arrivati al punto che lui ha pagato 2 biglietti aerei per questo suo presunto amico Anthony Pike e per suo figlio. Allora, da alcune mail di Dale Pike alla fidanzata, che era una ragazza copertina, vabbè, questo non cambia nulla, esce fuori il fatto che Dale si dice ansioso di conoscere Chico, che è appunto Enrico Forti, il nuovo proprietario dell'hotel di suo padre, che è anche un produttore cinematografico. Scrive, aperta parentesi, chiusa parentesi, aperte virgolette, di avere con sé un progetto per fare un film e di volerglielo presentare. Allora, questo Dale Pike già dà per venduto l'hotel del padre a Enrico e non vede l'ora di appunto di conoscerlo, almeno per quanto scrive alla fidanzata. 2 giorni prima della partenza Anthony fa un'ultima chiamata a Enrico Forti adducendo problemi personali, attenzione, spostando il suo appuntamento con lui a New York, cioè non più a Miami ma a New York, per il mercoledì successivo, 18 febbraio. Attenzione, perché Miami e New York sono distanti migliaia di chilometri. E quindi non è proprio, ah guarda, non ci vediamo a Roma, ci vediamo a Fiumicino. No, è un pochino più distante. E Enrico non, ormai c'era dentro come un pesce e vabbè, e va avanti così, non si insospettisce. Suo figlio Dale invece avrebbe comunque viaggiato a Miami, lo informa Anthony, da solo la lunedì della domenica 15 febbraio del 2000, scusate del 98, ed Anthony chiede a Forti di andarlo a prendere all'aeroporto per ospitarlo a casa sua di Enrico Forti, chiaramente. Quindi questo Dale Pike vuole inoltre, anche oltre a essere viaggio pagato, vuole anche essere appunto ospitato a casa dell'amico di suo padre. Forti acconsente ancora un'altra volta, ma dopo il suo incontro con Dale Pike all'aeroporto, quest'ultimo in automobile gli chiede di essere portato in un parcheggio al ristorante Key Biscayne, dove ci sono degli amici di Knott, il tedesco truffatore di cui abbiamo parlato prima, che lo stanno attendendo e avrebbe trascorso alcuni giorni con loro in attesa dell'arrivo del padre. Quindi Dale dice una cosa differente rispetto ad Anthony, prima cosa, e questo evento, cioè il fatto che arrivato all'aeroporto Enrico Forti incontra Dale e Dale si fa portare in questo posto che voleva Dale, è riferito esclusivamente da Enrico Forti, ok? Questo per capire le cose. Questa cosa qua è riferita da Enrico successivamente. Forti quindi gli dà il passaggio fino al luogo indicato da Dale e lo lascia al parcheggio di questo ristorante verso le 7 di sera. Il suo contatto con Dale Pike, fisico concreto, è durato esclusivamente mezz'ora. Lui l'ha preso dall'aeroporto e l'ha portato al ristorante. Ok, e qui arriviamo al momento, probabilmente al fulcro, insomma, della storia, non ovviamente l'epilogo, perché arriviamo alla morte di Dale Pike, che poi ovviamente è l'evento che innescherà tutta una serie di conseguenze successive, che poi sono proprio le conseguenze per le quali stiamo facendo questa trasmissione, indipendentemente da come la pensiamo, perché noi non vogliamo poi esprimere un'opinione personale, ossia lo possiamo anche fare, però chiaramente non vogliamo prendere una posizione assoluta e netta. Quello che vogliamo fare ovviamente è raccontarvi una storia e poi raccontarvi i movimenti e le situazioni che ci sono dietro, per poter dare a voi anche la possibilità di vedere come o se ovviamente sostenere anche la causa di tutto quello che si è creato attorno a Chico Forti, in favore della libertà di Chico Forti ovviamente. Arriviamo dunque alla morte di Dale Pike. Sì, perché la morte di Dale Pike? A un certo punto le cose precipitano. Il giorno 16 un surfista ritrova il cadavere appunto di Dale Pike in un boschetto che limita la spiaggia a poca distanza dal parcheggio dove Enrico Forti lo aveva lasciato. E era stato giustiziato con due colpi di pistola calibro 22 alla testa, alla nuca. Denudato completamente, ma con vicino al corpo il cartellino verde di cui viene dotato da una dogana chiunque entra negli Stati Uniti. Quindi hanno lasciato sul luogo del delitto alcuni oggetti personali per facilitare l'identificazione di Dale Pike. Già questo, cioè, ti fa capire un sacco di cose, no? La morte fu fatta risalire entro le 8 ore 8 e le ore 22 del giorno precedente. Ricordate cosa ho detto prima? Che Enrico l'ha portato al ristorante, secondo quanto dice lui, alle 18. Quindi questo è morto due ore dopo. Poco tempo dopo il suo commiato di Enrico Forti, appunto. Fu provato che Enrico Forti alle 8 si trovava all'aeroporto di Fort Lauderdale. E qui c'è la prima cosa che non torna, perché appunto Enrico Forti disse di essere andato alle 5 all'aeroporto e alle 6 di aver lasciato il Dale al ristorante. Invece la giuria poi prova, cioè anzi scusate, l'accusa prova che Enrico Forti alle 8 si trova all'aeroporto. Al processo viene accusato e condannato come mandante dell'omicidio. Allora, cosa succede lì? Lasciami andare un pochino avanti, Simone, perché altrimenti le cose non si capiscono. Succede che le accuse praticamente che vengono mosse a Enrico Forti si basano tutte sul fatto che in un primo momento egli tace sulla circostanza dell'arrivo di Dale Pike domenica 15 e omette la verità, cioè dice una piccola bugia sull'incontro all'aeroporto. Ma andiamo con ordine. Nei giorni che seguono i fatti Enrico Forti non è affatto preoccupato per le sorti di Dale Pike, che è il figlio di Anthony Pike. Lui sta aspettando Anthony Pike per concludere la questione dell'acquisizione dell'albergo. Però appunto cosa succede? Mercoledì 18 a New York, dove appunto si era recato per l'incontro del padre, apprende appunto dal padre la notizia dell'omicidio. Apprende dai media la notizia dell'omicidio di Dale Pike. Sa dell'appuntamento con Anthony Pike e Forti non ha più notizie di Anthony Pike, ok? Forti torna immediatamente a Miami il giorno seguente, cioè il 19, e si reca spontaneamente al dipartimento di polizia per rispondere ad una convocazione come persona informata sui fatti, che in realtà non sarà una convocazione come persona informata sui fatti. Infatti poi scopriremo che si tratta del vero primo e proprio interrogatorio come maggiore indiziato per l'omicidio di Dale Pike. Quindi la polizia lo attira in caserma con una scusa falsa. Però lo attira in caserma con una scusa falsa senza bisogno di avvocato. Perché appunto loro dicono: ah, è solo una convocazione come persona informata sui fatti. Anthony Pike invece... Anthony Pike era vivo e vegeto, che è il padre. Però in quell'occasione la polizia vuole trarre in inganno Enrico Forti e gli rivela, allora prima di tutto lo sottopone a un interrogatorio e quindi non a una convocazione spontanea senza avvocato, e poi la polizia lo informa falsamente che oltre al figlio di Anthony è morto anche Anthony, è stato trovato ucciso anche Anthony. Ovviamente pensate a Forti, in quel momento è pieno di terrore per la morte di due persone che ha visto da poco, insomma, e che comunque pensava di incontrare il giorno dopo. E grazie a quella falsità riferita dalla polizia, Forti nega e nega di aver incontrato Dale Pike. Non lo so perché l'ha fatto, probabilmente si è fatto prendere magari anche dal panico, dalla paura. Certo. Simone, tu cosa ne pensi? No, sì, è quello che pensavo anch'io. È chiaro che in una condizione del genere, a parte già il trabocchetto in sé, no? È chiaro che entri in una condizione psicologica particolare, no? E se non sei, come chiaramente suppongo chiunque di noi avvezzo, insomma, a situazioni del genere, non hai magari la giusta freddezza, puoi commettere errori di questo tipo in maniera sciocca sicuramente, ma insomma, dal nostro punto di vista anche comprensibile, no? Poi chiaramente il discorso della polizia è sicuramente diverso. Che poi dopo, alla fine di questo pezzo, ho un paio di domande. Nel frattempo andiamo avanti. No, sì, beh, allora brevemente cosa succede? Succede appunto che lo tirano in questa trappola, perché io la chiamo palesemente trappola, per me è una trappola. Allora, intanto la polizia italiana farà tanto schifo, però queste cose non le può fare, cioè non ti può mentire, tanto per chiarire una cosa, no? Polizia americana sì. E la sera del 20, resosi conto della gravità della situazione, torna la polizia il nostro Enrico Forti. Anche qua persona molto ingenua secondo me, per consegnare tutta una serie di documenti relativi al rapporto d'affari tra lui e Anthony, e appunto ingenuamente si presenta come senza l'assistenza di un legale, anche per via di una garanzia che l'ex capo della squadra omicidi da lui conosciuto, cioè lui conosceva questo capo della polizia, gli aveva dato, l'aveva rassicurato che si trattava solo di chiarimenti per aiutare le indagini, invece era tutt'altro. In quell'occasione viene immediatamente arrestato, quindi lui va spontaneamente alla polizia, la polizia lo arresta e sottoposto ad un interrogatorio massacrante di 14 ore. Non so se vi rendete conto cosa vuol dire un interrogatorio di 14 ore. Tanto che appunto mi ricorda un'altra persona che è stato primo tratto in inganno e poi sottoposto a interrogatorio massacrante. Mi sto riferendo all'anarchico Pinelli negli anni 70 in Italia. Stessa uguale procedura. Durante il quale appunto ammette di aver incontrato Dale Pike, quindi si contraddice, e di averlo accompagnato al parcheggio del ristorante. Al che lì la polizia dice: ah, qua ha praticamente ammesso che l'ha ucciso lui, perché è la stessa cosa. Ha preso questa persona, l'ha portata al ristorante, praticamente qua ci sta dicendo, e prima ci diceva che non l'aveva mai incontrato, praticamente ci sta dicendo che è lui l'assassino. Beh, sì, no, è la stessa cosa, no? è quasi, come dire, un sillogismo scontato. Ma io però non capisco una cosa. Perché vabbè, tu prima hai fatto riferimento al fatto che alcune cose la polizia americana le fa e tendenzialmente altre polizie magari non lo fanno. In realtà poi noi abbiamo visto anche con... magari è un caso molto, anzi no, magari è un caso estremamente diverso, però l'abbiamo visto con il responsabile di Mega Upload quando fu arrestato dall'FBI. In realtà poi il processo fu annullato e fu resa nulla ovviamente tutta quanta l'operazione, proprio perché c'erano state delle irregolarità, no, nelle procedure. Quindi quello che in realtà mi fa pensare è che in America, ovviamente negli Stati Uniti nello specifico, alcune regole vengono applicate nel momento in cui tu hai una forza tale, quindi come personaggio, come presenza, come difesa, come peso politico, come peso economico, una forza tale da poter dimostrare o far sì che queste irregolarità diventino evidenti. Quindi la domanda che mi faccio io: ma perché questa certezza e questa necessità della polizia degli Stati Uniti a prendere Kiko come capro espiatorio di una storia nella, perché evidentemente dietro sotto qualcosa ci deve essere, insomma, no? Probabilmente qualcosa di grosso. Nel senso, perché lui ha avuto la sfortuna, indubbiamente, l'ingenuità, in alcune cose, insomma, uno può anche dire un po' se l'è cercata. Dall'altra ha avuto la sfortuna di trovarsi al centro di un qualcosa che era enorme, perché veramente non c'è una motivazione per la quale tutto questo inganno, tutto questo voler prendere necessariamente e velocemente un colpevole come capro espiatorio e buttarlo ovviamente poi ai piombi, insomma, perché poi insomma in realtà questo è quello che è successo, perché pure il processo non è stato poi tanto diverso. E a questo punto qual è la tua sensazione? Perché non ho mai trovato documentazioni o articoli in merito a ipotesi sul perché, insomma, perché poi è questo che in realtà mi manca come informazione. Dici perché la polizia si comporta così negli Stati Uniti? O perché nello specifico caso nei confronti suoi, perché questa necessità di doverlo immediatamente come te posso sì, dire? Sì, okay, sì, ho capito. Perfetto. Ma secondo me perché è una questione culturale, cioè negli Stati Uniti è ancora più forte la questione che il cattivo oppure il criminale deve essere messo ai ferri subito, perché questa è la cultura protestante degli Stati Uniti, e quindi una persona che sbaglia va subito messa in galera, cioè questa è un po' la mentalità, ok? Cioè qua stiamo parlando di mentalità, non di leggi. E questa cosa che facevi affiorare te è molto importante, perché ti spiega anche che in carcere per omicidio ci sono solo neri negli Stati Uniti e non bianchi. Perché? Perché i neri, poveracci, non hanno i soldi per difendersi, non contano un cazzo, scusate il termine, contano molto poco come persone, nessuno si interessa della loro sorte, e la polizia proditoriamente probabilmente ha fatto con molte persone di colore quello che ha fatto con Enrico Forti. Attenzione, perché per gli americani, altra cosa culturale, chi non è americano vale quanto una persona di colore. No, quello è chiaro. Molto meno che un americano. Qui scomodiamo un esempio lampante, no? Lo ricordate? Ovviamente Sacco e Vanzetti, no? Penso che in qualche maniera rappresentino, no? Aveva i baffi, quindi era italiano, no? Esatto. Era italiano, quindi era colpevole. Perché esatto. Perché poi dopo ma anche lì... poi una persona pensa: ah, ma voi state parlando di cose dell'altro secolo, cosa c'entrano con questo secolo? No, state tranquilli, gli Stati Uniti da questo punto di vista, dal mio punto di vista, non cambiano. La giustizia penale americana è così. Se vi fermano con la macchina negli Stati Uniti, state pronti a una sparatoria. Questa è un po' la mentalità del poliziotto americano medio. Ma qua stiamo andando su un altro discorso. Torniamo brevemente alla storia di Enrico Forti, che appunto è stato un pochino tirato in inganno dalla polizia. E cosa è successo? Allora, abbiamo parlato di due interrogatori distinti, no? Alla fine del primo interrogatorio, Forti era accusato non di omicidio, ma di frode. Frode di Dale Pike, ok? Cioè loro l'hanno interrogato. Come persona informata sui fatti per la morte di Dale Pike, però poi l'hanno accusato di frode nei confronti di Anthony Pike, ok? Perché secondo loro c'era la frode, lui voleva prendersi a tutti i costi il fantomatico albergo in Spagna, a Ibiza. Tutta questa cosa è una cosa costruita dalla polizia. Forti non ha mai voluto comprare l'albergo, e infatti era quell'altro che glielo voleva vendere a tutti i costi. Ma comunque cosa è successo? Succede che poi sul giudizio finale, cioè sul processo, questa cosa della frode influisce. Perché influisce come, e viene usata anche qua in modo scorretto dal pubblico ministero, che in realtà non esiste negli Stati Uniti, perché chi ti accusa è la polizia negli Stati Uniti, come in Gran Bretagna, non è una parte terza, è la polizia che ti accusa anche nel processo. E dicevamo, la frode viene usata come movente per il processo per l'omicidio. Allora, lui, Enrico Forti, era stato scagionato dall'accusa di frode al primo interrogatorio, cioè scusate, dopo il primo interrogatorio. E cosa è successo? È successo che appunto, secondo quanto riferisce gli atti processuali, gli atti processuali dicono, la teoria dello Stato sul caso era che Enrico Forti avesse fatto uccidere Dale Pike, perché Forti sapeva che Dale avrebbe interferito in qualche modo con i piani di Forti per acquisire dal padre demente, in modo fraudolento, il 100% dell'interesse dell'albergo di Ibiza. Dale aveva viaggiato verso Miami dall'isola di Ibiza in modo che Forti avrebbe potuto mostrargli il denaro, 4 milioni di dollari richiesti per la transazione, per l'acquisto dell'albergo di suo padre. Forti semplicemente non aveva questi soldi. Allora, secondo appunto l'accusa, Forti incontra Dale Pike e lo uccide, perché è di mezzo a questo scambio di denaro. Ovviamente tutta sta storia, secondo me, cioè, è smontabile molto facilmente da un buon avvocato italiano, anche da un avvocato scarso, secondo me, perché prima di tutto non ci sono soldi nella vicenda, non sono stati ritrovati, non ci sono conti, non c'è, cioè, questi soldi, secondo me, boh, o se li sono inventati oppure vabbè, non lo so. E per di più, non sta in piedi, cioè non sta in piedi, perché appunto, se di frode si trattasse, eventualmente la frode non, cioè, nei confronti di Anthony Pike non sarebbe comunque una frode a un padre demente. Cioè, Anthony Pike invece era il furbo, che non era tutt'altro che demente, e voleva vendere l'albergo, che non valeva nulla, a Cicco Forti per farci su dei soldi. Quindi Forti, cornuto e mazziato due volte, tanto per capirci. Cioè, prima viene prioritariamente, tentano di fregarlo gli amici, cioè Anthony Pike. E poi non si sa per quale motivo il figlio di Anthony Pike muore e la polizia dà a lui la colpa. Beh, io vabbè, il problema non lo so, ci sorrido sempre un po' sopra su questa cosa, perché non mi capacito, nel senso che, ecco, come dici te, cioè, io faccio un attimo l'osservazione. Tu hai detto questi soldi da dove sono usciti fuori, no? Vi ricordate i famosi... No, beh, ma perché lo sai perché lo faccio? Perché, scusami, poi ti lascio parlare. Perché nei vari processi che noi assistiamo in Italia, per mettere dentro uno, anche solo per aver versato tangenti o per tutti i maneggi che sentiamo dei politici, saranno migliaia e migliaia di fonti e di carte che attestano questo passaggio di denaro. No, chiaro. Cioè, la giustizia italiana sulle prove è severissima. Cioè, uno in galera non ci va per una prova falsa, tanto per capirci, in Italia, almeno recentemente. Tanto è vero che tanti furfanti riescono a farla franca proprio per insufficienza di prove. Prego, scusa. Certo, no, è giusto, no, è che ironicamente mi ha fatto pensare, mi ha fatto venire in mente quei telefilm polizieschi degli anni 80, no, dove facevano vedere che mettevano il sacchetto di droga dentro alla saccoccia del delinquente di colore, chiaramente, e poi lo perquisivano, già, vedi, c'è la droga, insomma. Quindi, cioè, in realtà, quello che noi sappiamo di tutta questa storia qui, ovviamente anche grazie alla spiegazione di Paolo, è che Chicco è andato a processo su prove spesso e volentieri più che indiziarie e non palesemente evidenti, e che anche il processo in sé è stato poi in realtà una sorta di processo sommario, perché era un processo nato e costruito per avere un determinato termine, tant'è che è stato anche velocissimo come processo, se non mi sbaglio, giusto Paolo? Giustissimo, 24 giorni. 24, cioè, nel senso... E la... Per tutto il processo, eh? Tutto il processo, esatto. Ora, Forti è stato condannato ovviamente per omicidio, è in un carcere negli Stati Uniti, appunto ricordando un po' vecchie storie, vecchi abusi, vecchi soprusi fatti magari dal governo degli Stati Uniti, dove magari sono passati 60 anni prima di ottenere una spiegazione, una scusa, qualsiasi cosa, e una revisione del processo, esatto, anche, e non c'è la forza politica per rimettere in discussione questa questione, e quindi, cioè, nel senso, la posizione del governo italiano in realtà è una posizione un po' così come su tantissime altre situazioni che magari hanno attirato di più l'attenzione dell'opinione pubblica, tipo vi ricorderete, insomma, il famoso Caccia che tagliò il cavo della funivia, che esatto, sì, no, sì. Quindi, cioè, hai perfettamente ragione, proprio qua che volevo arrivare io, perché adesso stiamo parlando da 50 minuti delle vicende di Enrico, però Enrico è un caso molto sfortunato e tutto quanto, però è chiaro che quindi questo dovrebbe farci pensare che noi come italiani non valiamo nulla, cioè noi non valiamo niente, cioè fuori dall'Italia noi non valiamo niente, perché se il nostro governo non pretende un processo giusto per un cittadino, per un suo cittadino accusato in un altro paese, questo mi fa molto pensare, e mi fa molto pensare al fatto che quando io anche in passato mi sono insomma esposto dicendo che siamo dei servi degli Stati Uniti, molto lontano dalla verità non andavo. E questo perché adesso volevo un pochino estraniarmi dal rapporto Italia-Stati Uniti, ma parliamo ad esempio del rapporto Cina-Stati Uniti. Non è mai successo una cosa così. No, vabbè, ma infatti è purtroppo... Non è mai successo, cioè se mettessero dentro un cinese per una cosa così, alza il telefono Hu Jintao e gli fa una lavata di capo a Obama e il giorno dopo è fuori. Cioè, prego Simone, di pure quello che ho interrotto. No, vai, continua, è che in realtà, non è che io personalmente o di tutto un podcast o sicuramente anche Paolo, non è che vogliamo usare la storia di Chico Forti per arrivare al punto in cui ovviamente dimostriamo quanto in realtà ci sia un disequilibrio, no? Al punto di vista anche giuridico, politico, geopolitico, quello che volete, lo sappiamo, è così, purtroppo lo è sempre stato. Il problema è che spesso e volentieri non è che si tratta di fare un gioco forza, che ne so, su una legge, sulla tassazione commerciale tra un paese e l'altro. Qui stiamo parlando di persone, no? Quindi persone che sono in carcere, che pagano, ecco, cioè nel senso, Forti è in carcere di massima sicurezza in America da ben 12 anni, ok? E è stato condannato su prove che, insomma, sappiamo, insomma, sono abbastanza in indiziarie, sono praticamente soltanto delle pure supposizioni, e a parte alcuni piccoli movimenti di supporto a questa storia qui, non è che si vede, insomma, proprio c'è, cioè, una sorta di pseudo disinteresse proprio generale, cioè questa è veramente la cosa che capisco, che tanto probabilmente non otterremo mai niente, perché l'abbiamo visto anche quest'estate, no? Quando gli Stati Uniti intervengono in un processo italiano, il processo italiano subisce l'influenza, quando noi cerchiamo di far capire che quello, voglio dire, è comunque un nostro cittadino, no? Che comunque meriterebbe un certo tipo di giustizia, comunque non c'è possibilità di sorta. Questo è un dato di fatto. Io, insomma, voglio sapere da Paolo magari la sua opinione finale, così poi andiamo a concludere, poi vi do due suggerimenti, perché indipendentemente da come la pensate, io penso, insomma, che sia giusto che tutti siano informati. Anche su Facebook ci sono due o tre page, insomma, che sostengono la causa di Chico Forti. Il fatto che ce ne siano più di una un po' mi lascia anche un po' perplesso, perché In realtà penso che non è che stiamo parlando di correnti politiche, stiamo parlando di una causa unica, insomma, che dovrebbe essere di interesse collettivo a essere aggregata, perlomeno questo è il mio parere, insomma. Vai Paolo. No, no, beh, ti ringrazio se mi lasci chiudere a me, ma comunque appunto Enrico Forti è stato condannato come non come proprio come omicida, ma come corresponsabile di un omicidio, ok? Senza arma del delitto, primo, senza processo, con processo sommario, oppure vabbè, questa è una nostro punto di vista, ma comunque con un processo molto, molto breve e soprattutto con delle prove indiziarie, come ha già detto Simone più volte. Allora, questo fa sicuramente pensare che uno, la giustizia americana non è poi tanto meglio di quella italiana, purtroppo. Due, che cioè la questione politica alla fine salta fuori. Cioè, salta fuori non tanto per la questione Anthony Pike piuttosto che Enrico Forti piuttosto che Stati Uniti, no, perché non ci deve essere retropensiero. Ah, voi parlate così perché ci sono di mezzo gli Stati Uniti, siete anti-americani, eccetera. Ma sì, questo può anche essere, però io mi sarei mosso nella stessa direzione se Enrico Forti fosse attualmente trattenuto in Brasile, come se fosse attualmente trattenuto in che ne so, Finlandia. Dal mio punto di vista, io so per certo che delle persone condannate a pluriomicidi con delle prove inoppugnabili e schiaccianti in Italia sono state dentro in carcere anche per 6-7 anni. Forti è in carcere da 12 e non si sa quanto dovrà ancora star dentro. E in questi 12 anni dov'è la politica italiana? Cosa sono i trentini? Sono meno italiani degli altri? Questa è una domanda che sicuramente è personale, però io ho più di qualche sassolino nella scarpa, perché appunto gli italiani che di solito sono negli Stati Uniti, gli italo-americani sono di solito meridionali. Questo è una piccola parentesi, forse voi direte non c'entra nulla, però forse qualcosa c'entra. Sono soprattutto siciliani, calabresi, campani. Se fosse stato siciliano, calabrese, campano, secondo me, e questa è una critica al Trentino che sto facendo, secondo me si sarebbe mossa l'intera regione per avere indietro Enrico Forti. Invece in Trentino è visto semplicemente come una questione individuale, cioè questo tale Enrico Forti, di cui ci siamo dimenticati anche i successi sportivi, ha fatto qualcosa di poco chiaro negli Stati Uniti e là è stato incarcerato. Allora forse un pochino bisognerebbe approfondire, però direi che è anche tardi, perché se adesso il governo italiano puntasse i piedi finalmente dopo 12 anni e finalmente si rifacesse il processo, con tutta probabilità Enrico Forti sarebbe rilasciato. E questo, per insufficienza di prove. E questo è il problema, secondo me, infatti, perché comunque lui ha avuto veramente la sfortuna di trovarsi in una circostanza particolare, e secondo me accopriva anche qualcosa di più grande, come probabilmente dici te, e è un po' come buttiamo subito la sabbia su sto buco e non ci pensiamo più, nel senso che questo è, secondo me, stato l'approccio americano. E chiaramente poi nessuno chiede la liberazione dei Chico Forti a sbafo, come possiamo, cioè, nel senso, quello che si chiede ovviamente è una rivisitazione, insomma, del processo sulla base di prove, e probabilmente anche su, perché quello che io non ho mai letto è anche che tipo di difesa ci ha avuto Chico, insomma, perché poi pure questo, insomma, magari bisognerebbe, insomma, approfondire sicuramente. Insomma. Comunque, quella che era la nostra intenzione era in generale di raccontarvi questa storia e di esprimere la mia opinione e poi l'opinione di Paolo, che ovviamente per noi è sempre un'opinione da tenere in considerazione. Quindi questo l'abbiamo fatto. Vi metteremo nelle note dell'episodio vari elementi, articoli dove potete anche un po' provare ad approfondire, anche se poi in realtà la storia sostanzialmente questa è. Ci sono anche dei gruppi, appunto, e delle pagine su Facebook che fanno movimento e sono comunque magari interessanti da seguire, perché spesso e volentieri ci sono degli aggiornamenti, varie situazioni, insomma, perché ribadisco, lui essendo stato comunque in una carcere di massima sicurezza non ha avuto neanche la possibilità per molto tempo di avere contatti in generale, anche con né con le famiglie né con amici, parenti o comunque qualsiasi persona che potesse dargli un po' di supporto. Quindi è questo accanimento, insomma, nei confronti di una persona che sicuramente, voglio dire, avrà fatto delle cavolate, nel senso, sicuramente si è andato a inserire in un contesto probabilmente che non era probabilmente a far suo, sicuramente, insomma, ci potranno essere, insomma, tanti se e tanti ma, però noi pensiamo che la giustizia, io e Paolo in particolare, pensiamo che la giustizia sia un'altra cosa, ma purtroppo rigorosamente veniamo smentiti da fatti come questo, insomma. Quindi questo è quanto avevamo da raccontare, Paolo. È vero. E io sono, insomma, stato molto contento di partecipare al primo nuovo episodio della nuova serie di tutto un podcast. Sicuramente torneremo, secondo me, a parlare anche di altre vicende che appunto sono vicende che andrebbero trattate un pochino di più e magari facendo vedere anche l'altra parte della luna, come abbiamo tentato di fare noi in questa puntata. E quindi io vi saluto e spero che ci risentiremo a breve. Perfetto, allora lunedì, come tutti i lunedì, ricordatevelo, Fuori Tempi, quindi www.fuoritempi.wordpress.it, fuori.tempi@gmail.com è la mail se volete contattare Paolo. Ricordatevelo, insomma, sia su italianpodcastnetwork.it che su Facebook, cercando Fuori Tempi e abbonandovi gratuitamente potete ascoltare la trasmissione di Paolo, che è insomma sempre abbastanza attenta e acuta a tutti quelli che sono gli avvenimenti nazionali e internazionali che accadono durante la settimana. E va bene, chiudiamo e salutiamo Paolo e mandiamo il nuovo brano. Ciao. There's something in everyone looking for a lonesome place. I find mine one song at a time. Listening for your voice, looking for the lost fingerprints. But they're gone, but they're gone. I look through the cracks in the leaves, working on spelling out things. But nothing came, and nothing came. I don't wanna let the summer be over. Mended. Bon, bene, siamo tornati in studio. Chico Forti, abbiamo detto, insomma, una persona che in qualche maniera, anche grazie alle sue ingenuità, anche probabilmente all'impressione di essere entrato in un mondo che però magari culturalmente noi non era in grado di gestire, è una persona molto ingenua che si è fatto mettere in mezzo in tante situazioni. È vero anche, insomma, che le amicizie che lui si era costruito non erano proprio delle migliori, insomma. No. Tra virgolette, non è che se l'è andata a cercare, diciamo così, però... No, assolutamente, però... No, insomma, diciamo che se uno... Ci ha messo lo zampino. Un pochino, sì. E purtroppo questa è la storia che vi abbiamo raccontato. Sta a voi, ovviamente, prendere le vostre decisioni. Noi abbiamo... Così vi abbiamo raccontato questa storia, ve ne racconteremo anche altre, probabilmente anche più controverse di questa di Chico Forti. Sì, stiamo preparando dei personaggi molto molto molto interessanti e molto particolari, particolari e anche difficili da affrontare, quindi... però ogni racconto che noi vi facciamo, come in questo caso Chico Forti, ha sempre un motivo per il quale noi lo tiriamo fuori, ed è anche questo motivo, in maniera molto, diciamo, subliminale o indiretta, una nostra opinione, diciamo così, un nostro modo di pensare che comunque cerchiamo di trasmettervi, sempre però ovviamente senza imporre assolutamente niente. Va bene, detto questo, www.ditutounpodcast.wordpress.com. Michela, come si scrive? Di tutto un podcast con la Ok. E di tutto un podcast è il nostro Twitter. Sì, sempre, sì. Sempre con la E di tutto un podcast @gmail.com. E di tutto un podcast su Facebook. Perfetto. Noi vi vogliamo numerosi, tanti, e vogliamo soprattutto sapere che ci avete ascoltato, sapere quello che pensate di noi, della puntata e soprattutto dell'argomento. Quindi esigiamo tantissimi commenti sulla nostra pagina, sia Facebook che la nostra pagina WordPress. Vi aspettiamo, vi ringraziamo, grazie mille. Io ringrazio tutti di nuovo, ringrazio soprattutto mio marito, perché al di là di quello che tutti possono pensare è una persona speciale e non mi limita assolutamente. Mamma mia, però non si può. No, è vero, hai ragione, scusa, è solo che mi sono imbarazzato. Non mi limita sicuramente, anche se rompe un po' i coglioni, questo ve lo devo confessare. Però è forse una delle poche persone che crede veramente in me, quindi... Brava, dillo. Se la facciamo sentire, sì, in famiglia questa la dovranno ascoltare. E ragazzi, torniamo a dire una cosa, storia, te la faccio dire a te, questa è tanto che ci mancava, salutando ovviamente, dicendo ciao e alla via così. All this working for a living has really made me feel like giving up. Monday, Tuesday, Wednesday, middle, Thursday, Friday, paid so little. Early morning, I'm still tired, drag my ass so I don't get fired. I will not be late for dinner. These days are long and I feel thinner. And there's a light behind your eyes that shines so bright. It's all worthwhile. It's all worthwhile. All this working for a living has really made me feel like giving up. Someday I'll be old and weathered, eyes sunken and skin like leather.